piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Tanti auguri a te, tanti auguri Alessio, tanti auguri a te. Bravo! Bella! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Alessio, tanti auguri a te. Non ha resistito il professor Chiappini a mettere Carrà tanti auguri con questa regola a ricalco, si parla di auguri, tanti auguri. Beh ragazzi, pensate un po', chi come me ha 62-63 anni, manco mi ricordo, quante volte si è sentito dire tanti auguri, ve lo posso dire, fino a 6-7 anni, poi non l'ho più sentito, grazie a Dio. A casa mia erano aboliti i compleanni, quindi sono un abolizionista di compleanni. Trovo una delle cose più tristi, ricordare questa scansione artificiale del tempo che passa. Triste, probabilmente per i bambini è divertente, ti fanno la tortina, vengono gli amichetti, viene il pagliaccio a fare l'intrattenitore, scarta la carta, vabbè, finché si è bambini, quando si cresce, da tutto è un onere, da fidanzati, da sposati, farsi regali, ti ricordi il mio compleanno, ma sempre inscenare una sorta di pantomima, che si è felici che si compiono gli anni, cioè si è felici che ci si avvicina a mettere un piede nella fossa, non si capisce, un controsenso. Andando avanti ancora nel tempo, il compleanno dei nonni, i nonnini che non capiscono già più niente, hanno tutti i nipoti intorno, un casino, gli dai la torta, gli fa male per il colesterolo, gli fai schiattare prima, il compleanno dei single. Tristissimo. Allora, compleanno dei single, conosco quelli delle donne single, perché ho amiche, gli amici non li ho, non li conosco, non so che fanno il compleanno dei single, si chiudono dentro casa e si guardano i film porno, non lo so, le donne single è così, terribili. Compie il compleanno l'amica, cosa bisogna fare? L'amica deve invitare a cena tutte le altre amiche, quindi già compie gli anni, devi anche invitare le invita a cena, sceglie il ristorante, vanno a fare questa cena tutte donne, tutte intorno, e parlano di quello che stanno mangiando, e poi fanno la colletta, fanno il regalino, non è mai gradito, poi adesso i regalini sono sempre dei buoni sconto per andare a farsi i percorsi della salute, i massaggi, queste cose qua, una cosa tristissima. Quindi vedi queste tavolate di donne tutte insieme che fanno finta di essere allegre, acchittate come se andassero alla grande infilzata, invece se ne stanno lì con le amiche a festeggiare il capodanno, a festeggiare il compleanno. Poi alla fine si fa l'occhiolino al cameriere, porta una tortina con le candeline, ne mette solo una perché l'età non si può dire, ce l'hanno tutte scritte in faccia, segnata l'età, non si può dire, tutte ragazze, tutte giovani, e si fa il compleanno di donne single, altra tristezza. Beh, tutto questo potrebbe finire nel nostro paese, potrebbe finire, nessuno vi dice più mai il mio compleanno, ricordatevi dei regali, no, non te lo dice più nessuno, perché? Perché questo forse è il lato positivo dell'islamizzazione dei nostri costumi, di cui tutti temete, mi scrivete ogni giorno, ci stiamo islamizzando, le nostre tradizioni stanno finendo. Guardate, c'è caso, possibile, già circola la voce nei luoghi più irripetibili e improbabili, che ci possiamo adeguare noi, per rispetto alle nostre risorse e agli immigrati, a quello che è diventato legge, una fatwa, quindi una legge assolutamente improrogabile in Arabia Saudita, grazie all'inventiva e alla genialità del signor Abdullah Al-Mutlaq, che è il consigliere spirituale della casa regnante in Arabia Saudita. Si è svegliato una mattina e ha detto: da noi da oggi è proibito il compleanno. Perché? Perché si spendono troppi soldi. Evidentemente questa è la ragione, ma c'è una ragione più sottile per proibire i compleanni. Sareste d'accordo per dire basta, per legge non si fanno più i compleanni? Nessuno ti può dire: ah sai, ricordati, io ti faccio gli auguri è una cosa terribile, ti fanno gli auguri, fai gli scongiuri, auguri di che? Stai zitto, non ci voglio pensare, via dicendo. Pensare si avvicina al compleanno, vengono i pensieri, le tristezze, passa un altro anno, oppure bisogna fare una festa, bisogna invitare gli amici, oppure bisogna fare regali a qualcuno che compie il compleanno. Avete una volta tanto la possibilità di favorire una legge che darà senz'altro una azione fluidificante nell'accogliere i nostri cari amici immigrati, ma questa volta non è mettere il kebab nelle mense scolastiche dei bambini, non è elevare i crocifissi alle classi, non è, che ne so, permettere la preghiera comune davanti alle chiese, è dire abolite i compleanni. Loro saranno contenti e noi staremo anche meglio. Desidera bere qualcosa mentre aspetta? Sì, prenderò uno Shirley Temple, per favore. Quando saranno arrivati tutti, ci porti da bere molto champagne. Bene, perfetto, eccellente. 20 minuti dopo, non c'era ancora nessuno. Posso portarle lo champagne adesso? No, non ancora. Mi dispiace occuparle il tavolo, non riesco a capire dove siano gli altri. C'è soltanto uno, il Cantinori, vero? Sì. Grazie. Il tempo di arrivare a casa ed ero caduta in un buco di depressione da cui solo uno speleologo mi avrebbe potuto tirare fuori. Ci sono 14 messaggi. Tesoro, mi hanno bloccata al lavoro, sono in ritardo di 10 minuti, il numero del ristorante è occupato, sto arrivando. Kerry, sono nel traffico, stanno pavimentando la Fifth Avenue, non mi aspettate, buon compleanno. Kerry, sono Stefan, sono nel posto sbagliato. C'è un ristorante messicano sull'undicesima che si chiama El Cantinoro. Ma questo è il compleanno sfigato di Kerry in una puntata di Sex and the City, roba di qualche decennio fa, ma ancora le nostre latitudini, le signorine zitelle fanno questi compleanni tra amiche, poi le amiche dicono che noia, sapeste cosa dicono dietro le amiche? Che noia, bisogna andare al compleanno di questa, che noia, prenderà il solito ristorante sfigato sicuramente, per risparmiare non si mangerà niente, poi ci tocca anche fargli il regalo, bisogna mettere i soldi, poi dopo c'è il compleanno anche di quell'altra, ma mi piacerebbe sapere come fanno i compleanno gli uomini singoli, ancora non lo so. Comunque 800 24 00 24, questa mattina raccogliamo semplicemente dei pareri che potrebbero diventare anche uno strumento di pressione verso chi vuole abolire i compleanni, e quindi fatemi sapere, voi siete d'accordo con l'adeguamento al nostro ordinamento giuridico della proposta del consigliere spirituale della Real Casa dell'Arabia Saudita Abdullah Al-Mutlak di abolire i compleanni. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Lei da che parte sta? Abolirebbe i compleanni per legge? Io non abolirei alcuna festa per legge di nessun tipo, che sia religiosa o comunque... O cioè tenerle tutte, lei per tenerle tutte? Sì, per tenerle tutte, ognuno fa quello che vuole rispetto della legge, poi ovviamente... Ma la legge lo sa cosa serve, Angelo? La legge serve che nessuno ti può chiedere, la legge serve, nessuno ti fa più gli auguri di compleanno, nessuno ti impone di andare alle feste di compleanno, non devi più ricordarti il compleanno delle persone care, ci sarebbe un vantaggio. Faccio già così di mio, non è che ho bisogno di una legge per... Lei è un anticompleannista, lei è un anticompleannista comunque, mi sembra di intuire. Sì, sì, non è che sono anticompleanno, ognuno può fare quello che vuole, io non lo festeggio, ho degli amici che lo festeggiano, ho piacere stare con loro, sia... Eh sì, però scusi Angelo, lei la fa troppo semplice. Lei, se l'amico la invita e dice faccio una festa per il mio compleanno, vieni, lei si sorbetta quella cosa terribile, ci va. Dipende, cioè dipende dall'amico, dipende da tutto, però il più delle volte con i pochi amici che ho, sì, perché a me sono scelti bene, però appunto deve essere una cosa soggettiva. Ma che fate? Le feste di compleanno che fate? Una volta vi fate ancora tanti auguri a te, così. No. Che fate? La tortina ve la fate con le candeline? Ma sì, giusto un minimo di torta, ma poi un... gesto, ma poco, cioè perché ormai siamo adulti, non è che ovviamente... diverso per se fossimo ragazzini, tra adulti una cena tranquilla tra amici, tranquilla dipende dagli amici anche ovviamente, se sono tranquilli o meno. E poi il regalo alla fine va fatto. Sì, un regalo, un pensierino comunque. Vabbè, no, è tutto ino, tortina, pensierino, alla fine sì. Che è una cosa che non c'è più, perché da un compleannone, sì. Regalone, tortona, sì. No, vede che è già finito nel suo immaginario, è già ormai agli sgocci, comunque la metto, lei... Sì. Non vorrebbe abolirlo. Salah, buongiorno. Buongiorno, sono Sala. Sala, Sala da Grassovio, Bergamo. Lei è d'accordo per la fatua di abolire i compleanni? E io appoggio al 1000% finalmente. Questo Abdallah, e voglio anche un Abdallah qui in Italia da abolire. Bravo. Questa stupida festa, perché sono stracotto. Lei quante mogli ha, Sala? C'ho solo una purtroppo, però c'ho tre figli. Quante mogli potrebbe prendersi se fosse nel suo paese? Non ho capito. Se lei fosse nel suo paese, quante mogli potrebbe avere? No, in Tunisia d'origine, io sono italiano, però d'origine Tunisia, però in Tunisia mai stata sta cosa qua. Quindi niente, come noi, su questa cosa una. Beh, questa è una fortuna comunque, già questo è il limite. Però sua moglie come usa casa vostra? Quando è il compleanno di sua moglie deve fargli la torta, il regalo, queste cose? Sì, è un casino, il problema è che ogni compleanno di un bambino c'è da litigare 2 o 3 giorni prima e ospitiamo quello. Benvenuto nell'Occidente civilizzato, è così. È un casino, mamma mia. E io pago. E lei paga. Senta, ma la famiglia mia che non festeggia il compleanno sono io, perché mi esce proprio dagli occhi questa festa qua. E quando è il suo compleanno invece, Sala, che succede? Gli fanno regali? Niente. Stabilisci bigliettini dei figli, auguri papà, ti vogliamo bene, sì, ma il resto... Ci parente un calcio in culo, diciamo, per dirla in maniera realistica. Beh, ma scusa, non è giusto questo, è giusto, almeno in questo dovremmo adeguare le nostre leggi a quello che dice questo signore, no? Ascolta, io non per motivo religioso, ma per motivo economico sta cosa... Infatti lui lo dice per quello, Guarda, sì? Che la fatua è esattamente per questo, dice, si spendono troppi soldi per i compleanni. Cioè, dà uno strumento religioso però per incidere nella vita civile, come giustamente deve essere. Quindi dice, vi obbligo a non fare più il compleanno perché spendete troppi soldi. Quindi, al massimo propongo che si festeggi dalla nascita del bambino fino a 10-13 anni al massimo. Ma massimo, proprio massimo, anche 7-8 facciamo, va, che poi tanto. Quindi lei potrebbe, scusi, Sala, adesso andare a casa da sua moglie con il foglietto dell'Arabia Saudita, guarda, c'è la fatua, non possiamo più far niente. Oh, quella lì si gira dall'altra parte, fa finta che non lo sa leggere né l'arabo né l'italiano. Ma così fanno le donne musulmane, dai, non è possibile. Comanda lei a casa? Comanda la moglie? Sì, ascolta, è il classico, no? No, guarda, vi siete proprio... guarda, va fatto male, va fatto veramente male stare in Italia. Come, rimetta le cose in ordine, scusi, come deve essere. Ormai non si può fare più niente. Sala, comunque, mestamente comunque lei è entusiasta. Dice, Sala, tunisino, finalmente uno strumento legale per poter riprendere in mano il dominio della mia famiglia. Bravo. Filomena, buongiorno. Ha sentito? Qua, buongiorno. Lei da che parte sta? È una bella lenza, Izza. La lenza e il pesce, dipende da che parte si sta. Avanti. Vabbè, ma insomma, dai, non è una bella ironia, sarebbe qualcosa a posto, il tunisino, la signora, sistemiamo bene. E allora, vediamo, visto che lei è così scafata, dire sono una lenza e non capisce il senso profondo della sincerità di quello che dico, come la vede lei? Ma io come vuole che la veda? Dipende dal suo punto di vista. Lo dico subito, allora, i testimoni di Geova già non lo fanno. Ma questa è nuova, questa non la sapevo. Come no? Quindi sono già più avanti di noi in questo, non lo fanno. No, ci sono già arrivati loro, i testimoni di Geova non festeggiano il compleanno, non partecipano ai compleanni, è una cosa che non... E lei come fa a saperlo? Chi gliel'ha detto? Come fa a saperlo? Il pronunciamento religioso. Come fa a saperlo lei? Scusi. Perché io a scuola avevo un'alunna e quindi non partecipava e non... Cioè quando era il compleanno di una bambina tutti portavano i dolci, lei usciva dalla classe? No, questa roba qui non esiste. Non è prevista, anzi è prescrittiva, cioè non è sanzionata, non penso che non si fa. Insomma, senta, lei tenga questa, se trova conferma diciamo storica, ma è così. Però se ci chiama qualche testimone di Geova ce lo spiega. Allora, senta, i testimoni di Geova non festeggiano. Noi italiani, invece io sono una sessantenne, quindi un po' di roba le ho viste, vengo, come dice lei, dal paese, quando parla della sua Umbria ubertosa e bella. Sì. Ebbene, infatti ci vado più da 30 anni. Le classi povere non facevano i compleanni, non si festeggiava proprio. Ma non sapevano nemmeno quando nascevano i figli, se lo dimenticavano, onestamente. Esatto, perfetto. Quindi che cosa vuole? Era una roba dei ricchi e adesso, siccome un po' di disponibilità economica è arrivata, il boom e non il boom, lo sboom e non lo sboom, e cosa vuole? Tutti festeggiano, ma festeggiano in maniera esagerata o in maniera limitata, dipende un po'. Io dico che insomma adesso arrivare a una normativa anche su questa cosa. Quindi lei da che parte sta? O sì o no? Lei vorrebbe che ognuno faccia come crede. No, non c'è terzium non datur. O sì o no? La vuole la legge per abolire i compleanni o non la vuole? Non la voglio. Non la vuole. Non mi interessa. Perché... Ecco, le confermo che i testimoni di Geova non festeggiano i compleanni perché credo queste feste non fanno piacere a Dio. La Bibbia non lo proibisce esplicitamente. Le ho detto una cosa nuova, lei non conosceva. Guardi, uscirò da qui illuminato. Perché siamo distratti. Alla prossima volta che uno mi dice vieni alla festa del compleanno, facciamo una festa sorpresa, devi mettere 20 euro. Dice, no, guarda, mi sono convertito. No, esatto, io mi convertirò a tutto quello che mi sarà utile convertirmi. Perfetto. Oggi mi converto a questa norma dei testimoni di Geova. Brava Filomena. Mario, buongiorno. Buongiorno a te. Da che parte stai, sì o no? Assolutamente no. Cioè abolire la legge, ecco, è come il referendum che non si capiva mai una mazza. Allora, lei vuole la legge per abolire i compleanni? Assolutamente no. No, allora anche lei è un abolizionista. Cioè, no, contro... non è questo il discorso. Posso fare una domanda intima a lei? Lei ha dei figli? Certo, due figli. Ok, perfetto. Immagino allora che quando hanno fatto il pubblico compleanno lei avrà visto il sorriso stampato sulla Sì, quando era piccolo, però due coglioni alla fine, perfetto, quando sono cresciute, c'ha la barba. Mi dico, fatelo per conto tuo. Sì, però la bambina non puoi organizzare soltanto un discorso. O lo attua, lo ha... No, ma finché sono piccoli, ogni occasione allora, per far contento un bambino va bene. Puoi dirgli anche la festa di Topolino. Oggi è il compleanno dei sette nani, far sette compleanni a settimana quello per farli contenti. Però è quello che dà gioia. Se noi eliminiamo anche la gioia già da piccoli. Ma no, allora, da piccoli non... abbiamo detto col nostro amico tunisino. Fino a otto anni. O lo aboliamo o non lo aboliamo. No, possiamo no, farlo per i piccoli sì e per i grandi. Sì, come no. No, certo, come no. Uno fa una legge, come dire, come il voto nella maggiore età. Cioè, fino a 9 anni, 10 anni diamo i compleanni. Dopo 10 anni mai più. Come Babbo Natale, uno fino a qua, mia può credere a Babbo Natale fino a 90 anni, capito? Non generalizziamo su Babbo Natale, il discorso sarebbe troppo ampio, però sì, il discorso sì. Certo, c'è gente che dice che non esiste Babbo Natale, si rende conto. Perfetto. Sono lì nei pensieri, dico che non esiste Babbo Natale, ecco, capisce come perfetto funziona. Quindi allora lei la legge la vorrebbe la legge che abolisce il compleanno, sì o no? No. No, perché comunque la vedo, come ha detto lei prima, un'islamizzazione di quello che sta avvenendo. Oh, questo è il punto. Ci andiamo a islamizzare anche in questo. Già ci siamo abbastanza dentro. Tutto sto kebab. Io, io penso che comunque ognuno ha le sue leggi, ognuno ha la sua ognuno a casa sua fa quel che vuole. No, che ognuno a casa fa qualcosa, ognuno è libero di interpretare quello che sia giusto o sbagliato nel suo punto di vista, sempre rimanendo nelle determinate quindi, regole. Però concludendo, comunque alla fine, concludendo il discorso resta questo. Io comunque vivo la mia vita da cristiano. Oh, da cristiano. Però aspetti, cristiani, sì, calma un attimo. I testimoni di Geova che interpretano la scrittura a modo loro dicono però a Dio non fa tanto piacere noi festeggiamo i compleanni. Perfetto, però come... E quindi? Intendevo prima il discorso che lei diceva, cioè non è questione soltanto di compleanno, è una questione generica su tutti i punti di vista. Allora, guardi, le dico, guarda, guardi, Luca 22, 17, 20, l'unica ricorrenza i cristiani sono tutti a osservare non riguardo la nascita, ma la morte, quella di Gesù. E quindi, oppure, la Bibbia, no, la Bibbia, no, questo è Luca, il Vangelo. Ah, scusami, non ti ricordo... La Bibbia non dice mai che un servitore di Dio abbia festeggiato il compleanno, e non si tratta di una semplice omissione, perché nella Bibbia si parla di due feste di compleanno celebrate da persone che non servivano Dio. Entrambe queste feste tuttavia sono presentate sotto la luce negativa. Genesi 40, 20, 22, Marco 6, 21, 29. E come vede, se lei è un buon cristiano non deve festeggiare il compleanno. In questo la religione monoteista trova un punto di comunità e assolutamente questo dovrebbe favorire le persone a far entrare questa nuova legge per proibire i compleanni. 800 24 00 24, tra poco. Melog. Tanti auguri a te. Apri il regalo. Dai. No, aspetta, apri il regalo. Vibra, devi mettere le pile. Ma dai, ma siete fuori. Guarda che c'è scritto, adoperano tutto anche per tutti noi. Con cura. E non mettere la vibrazione al massimo, sennò ti scappa via. Ma le batterie? Tocca mettere le batterie. Ma 800 24 00 24, vedete quanto c'è del vero e del giusto nella proibizione con un senso religioso del compleanno. Si regalano i vibratori ai compleanni. Pensate, persone adulte, persone timorate di Dio, persone che hanno una famiglia, a casa avranno dei bambini, regalano alla loro amica per il compleanno un vibratore. L'innominabile oggetto diabolico, il succedaneo della verga umana, qualcosa che dovrebbe scomparire comunque dai nostri negozi, alle nostre menti, al nostro immaginario, ma verrà finalmente, verrà Abdullah al-Mutlak con le sue fatue. Devo dire che con il sondaggio fatto fra il nostro pubblico, miseramente, questa innovazione, questo strumento di omologazione, di apertura, di inclusione che è la legge per abolire i compleanni, ha un grande sfavore. È entusiasta soltanto il nostro amico tunisino Abdul, che è schiavo della moglie, quindi vorrebbe evitare i compleanni. Non so come si chiama, ho detto a due, come dire mare rosse. Salam. Salah, il nostro amico Salah tunisino, poverino, dice non vede l'ora di poter portare questo in novità a casa sua, essendo costretto a festeggiare tutti i compleanni, nessuno festeggia il suo. In realtà gli altri sono tutti fermamente convinti che non bisogna intaccare le nostre tradizioni sacre, religiose, cristiane, territoriali e mantenere i compleanni. Sentiamo qualche ascoltatore. Umberto. Buongiorno, sono Umberto da Pisa. Sì. io da moltissimi tempo non festeggio più il mio compleanno, però sono contrario ad un'effettuale abolizione per legge. Quindi lei è per il mantenimento, per il mantenimento. Sono per il mantenimento anche perché ritengo che per i bambini, ma anche per altre... No, però scusi, abbiamo detto, introdurremo uno strumento legislativo correttivo. Fino a 9-10 anni è permesso, dopo basta. I bambini lasciamoli fuori. I bambini sarebbero salvaguardati nel loro diritto a avere il compleanno. Da quando, diciamo, comincia a entrare nell'età dei brufoli, basta compleanno. Quindi da 11-12 anni, fine, basta, si pensa altre cose. Lei quindi comunque, nonostante la tristezza del fatto che nessuno fa più compleanni con lei, scusi, sarebbe mal comune mezzo gaudio. Non voglio tirare, ma se no, con la legge sarebbero tutti tristi come lei, nessuno avrebbe il compleanno. Non sono d'accordo su questo mezzo malcomune mezzo gaudio, no. Per cui ognuno ha la propria libertà di festeggiarlo. Però lei è triste. No, io no, anzi, il giorno del mio compleanno io non sono triste, per carità. Però non ma mi nessuno, ma nemmeno che me lo ricordino. Nemmeno un messaggino con la faccina, col cuoricino, accidenti, niente. Sono su Facebook, un anno mi hanno invaso. Su Facebook purtroppo sì, se non si dimentica rimane. Per cui ho tolto la mia data. Va bene, molto chiaro, Umberto, chiaro. Alessandro, sentiamo Alessandro. Sì, pronto. No, io sono assolutamente favorevole all'eliminazione. Lei è per la legge, più. Perfetto. Ecco, finalmente, se no sembrava che l'unico, il povero signore tunisino, l'unico a difendere la fatwa. È una cosa da non poterne più. Io non so più, anzi fuggo da tutti i compagni. Adeguiamoci alle regole che ci vengono dall'Arabia Saudita, giustamente. Assolutamente sì. Abolizione. Dopo una certa età è una cosa triste. Ridicola vedere donne, uomini che pensano di essere ancora ragazzini. Quando fanno le feste con i balli, poi, per l'amor del cielo. La presente lei le feste? E fanno il trenino, meo amico cosa... Charlie Brown, quelle cose lì. Tutte rifatte, tutte che pensano di essere ragazzine, tutte fighe. Gli uomini li vanno dietro, è una cosa... Come lo festeggia? No, mi descrive una festa di compleanno tipica in cui lo zitellume e lo scapolume nostrano dà il peggio di sé. Faccia un esempio, sì, sarà capitato. Addirittura quelle a tema, dove bisogna vestirsi seguendo il dress code. Sì. Dei film sì, col dress code. Cioè da cosa? Cosa ha visto lei di cosa schifosa in questo genere? Ho visto, non so, tipo Happy Days, piuttosto che... Sì, lo sa perché, fanno tutto il dress code anni 50, non ci vuole una mazza. Uno tira fuori qualche vestito, un giubbotto di pelle, si mette un po' di gel, ecco fatto. Sì. È anche triste, capito? Almeno fa cosa di normale. Cosa più triste. Sì, le donne si mettono le pianelle con i calzini, le ballerine, sì, che gli fanno quelle belle caviglie tozze, si mettono le sentono chissà che. Sederi improponibili. Lo so, è la vita è questo, caro mio. Cose, mi dica dove c'è da firmare, io firmo. Bisogna prenderemo un contatto con l'ambasciata dell'Arabia Saudita dicendo che vogliamo fare una petizione per allargare subito. Chiameremo il presidente Boldrini, che è sensibile a questo, visto che l'ho sempre difeso una volta tanto, gli do uno strumento in più, per creare inclusione, omologazione e permettere ai nostri fratelli risorsa di vivere felicemente con noi, aboliamo i compleanni. Nicola. Pronto? Sì. Salve Nicoletti, abolire i compleanni. Vedi, stiamo risalendo. Abolizionista, ma poi io una storia personale particolare. Ce la racconti. Sì, mia moglie è brasiliana, l'ho conosciuta all'incirca 10 anni fa, avevo 25 anni. Io come... Ma era andato in Brasile a cercarsi una moglie, come funziona? No, era venuto lei in Italia per fare un periodo di lavoro. Per trovarsi un marito. No, è così. 18 anni, veniva venuta per fare un'esperienza di lavoro, l'ho conosciuta sul lavoro. E che lavoro facevate? No, lavoravamo in un settore della logistica. Delle logistica? Logistica. Cioè, che vuol dire logistica? Faccia capire. Tutto quel che riguarda magazzino, trasporti. Però, sì. Ambito magazzino, diciamo. Magazzinieri, va bene. Insomma, ho conosciuto mia moglie lì e ci siamo messi insieme. E come lei, io non festeggiavo i compleanni. Sono arrivato a tipo 7 anni, 8 anni, ho fatto l'ultimo. Basta, sì, almeno che io ricordi. Poi, niente, ho conosciuto mia moglie, mi ha fatto la prima festa. Questo è 10 anni fa. Io ho pensato, vabbè, mi faranno una festicciola. Poi mi hanno fatto una festa sorpresa. Entro in casa e casa sua c'erano anche i suoi. Ma una roba tipo bambino di 6 anni, palloncini, candele, torte, tutto. Tipo carnevale di Rio, tutti gli amici brasiliani vestiti. Amici, vicini, tutti brasiliani. Samba per ore, capito? Bellissimo. Ma io, sì, ma io pens- pensate, vabbè, mi hanno preso, cioè mi prendono per il culo, è una presa per il culo, ma no, è così, cioè ogni compleanno è così, ma il discorso è che poi ti fanno gli auguri, ti chiamano dal Brasile, gli zii, i cugini. Quindi allora lei prevede uno strumento legislativo che, introducendo una norma arabo-saudita, cancelli una norma brasiliana, quindi sarebbe un conflitto fra sì, minoranze, ma lei etniche. Mi dice, ma guarda che siete voi italiani che siete tristi nei compleanni. Certo, noi ci divertiamo un sacco. Sì, per me è un trauma. È un compleanno tutti i giorni, diciamo, facciamo ma così. Il problema, sai che non è tanto il mio compleanno. Mi sta chiamando al telefono mentre sto in diretta. Ma come viene in mente chiamarmi al telefono mentre sto in diretta? Vabbè. Perché poi io devo chiamare, cioè la quando i compleanni degli altri, devo chiamare, vuol tappare tutti quanti, i cugini, i parenti, i nipoti, tutti questi. Vabbè, fermo là, sentiamo subito adesso il caso di Stefano, che è un caso emblematico che bisogna trattare. Stefano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io voglio raccontare la mia esperienza. Io ho 34 anni, sì. Sono figlio di testimoni di Geova, quindi non ho mai avuto compleanni. Non ho mai festeggiato compleanni, non ne ho mai sofferto perché sono cresciuto così. Casa sua, sì. Nessuno festeggiava, è normale. Quindi non ho sentito la mancanza. Ma quando c'erano adesso... i compleanni degli amichetti di scuola, così ci andava? No, non ci poteva andare. Non ci partecipavo, anche se ero lì, mi mettevo in disparte e non partecipavo. Ringraziavo per l'invito, però. Vabbè, faccia parte della sua religione, è giusto che fosse così, doveva fare. Però adesso che sono adulto, non sono, ti ripeto, non sono un testimone di Geova. Diciamo, come si dice, sconvertito, come funziona? No, non sono mai stato un testimone di Geova, seguivo solo i miei genitori, poi da grande liberalmente ho preso la mia strada. E adesso fa 6 compleanni all'anno, quindi? E adesso che sono sposato, la cosa bella è che sono costretto a seguire mia moglie a tutti i compleanni dei bimbi, degli amici di mio figlio. Dice adesso recuperi, è la legge del contrappasso. Solo che mi sono reso conto quanto erano avanti i testimoni di Geova, perché andare ai compleanni è proprio una rottura di palle. Ma questo l'ho detto, guardi, io siccome ho deciso di convertirmi ogni giorno a qualcosa, per i compleanni mi convertirò ai testimoni di Geova. La prossima volta qualcuno mi dice auguri o mi chiede il mio compleanno, te ne ricordi? No. Mi spiace, devo starmene in disparte. Quindi anche lei naturalmente è un deciso sì. Stiamo risalendo, siamo quasi a metà. Essendo stato da lui dall'altra parte, le posso dire che loro sono proprio avanti. Avanti. Sono proprio avanti. Perfetto, sono avanti. Una testimonianza di un figlio testimone di Geova dice è meglio quando per legge, per credo religioso, non si festeggino i compleanni. Quel bambino in disparte, tutti diranno che triste, no, è più fortunato degli altri. E poi comunque sgraffigna qualche pasticcino, qualche pizzettina, perché a quello non è proibito. Ma comunque il momento in cui tanti auguri, il pagliaccio, la maestra, i regalini, se ne sta da parte e si fa i fatti suoi. Vi mostro i regali perché sono veramente tantissimi, sono super contenta. Yeah! Praticamente mi ha regalato questa bellissima tazza di The Walking Dead. Ma è fatta benissimo. Scritto The Walking Dead, AMC, è fatta stupenda, qua è così, e bella tazza di The Walking Dead con Daryl, super top, super figo, benissimo, proprio. E questa... Guardate poi quali sono le conseguenze dei compleanni, questa ragazza deve mostrare su YouTube i regali del compleanno, la tazzettina con gli zombie, pensate, bersi il caffè in una tazza con sopra gli umani putrefatti, avrà un altro sapore. Stiamo risalendo, devo dire, cominciano le persone, sono favorevoli nel nostro referendum, all'introduzione anche nel nostro ordinamento legislativo, del suggerimento, più che suggerimento è una legge, una fatwa, qui chi non la segue si tagliano mani, testa, pisello, tutto, di abolire i compleanni. Questo signore è consigliere della Casa Reale dell'Arabia Saudita, si chiama Abdullah Al-Mutlak, ha detto basta compleanni. Ho detto, siete d'accordo, la introdurremo anche noi, sarà uno strumento di inclusione. All'inizio la gente per principio, per partito preso, per difesa cieca e sorda dei propri valori cristiani, ha detto no, non si toccano le nostre tradizioni. Poi pian piano abbiamo capito che forse è proprio una figata. Valeria, buongiorno. Buongiorno. Come la pensi? Allora, faccio la premessa, sono argentina. Sudamericana, è probabile che abbiamo una concezione di vita un po' diversa sicuramente dall'Arabia Saudita, non pensavo così tanto lontano dall'Italia e dall'Europa. Mi dica, allora, sono un legale, abolire per legge un compleanno, ma la legge si deve infilare nelle nostre vite private, non ho capito quali sono le conseguenze. La legge, guardi, si infila sempre da qualche parte e molte volte non ci dà proprio gusto, è così, lo so. Ecco. Anche le leggi fiscali, immagini come si infilano quelle. Ecco, vabbè, però questa è una cosa, mi chiedo qual è il danno qual è il danno che produciamo se festeggiamo. L'altra cosa che volevo dire... No, ma il danno è per le persone come me che odiano il compleanno, sono giustificate. Ho capito, guarda, io lo stimo molto, però gli voglio dire, mi dispiace, non voglio essere pesante, ma abolire una festa, un momento, probabilmente il più importante delle nostre vite, siamo arrivati a questo mondo, no? Mi sembra un po' da pochezza d'animo. No, ma uno ne fa un'altra, scusa, ma una fa un'altra, fa la festa del pelo contorto, che ne so, se ne inventa un'altra qualsiasi. No, voglio dire, intanto, allora, questa cosa che voi dite che è una rottura di coglione... No, io lo dico, mi credo. Lo dice lei, è una rottura di coglione perché c'è una cosa, l'assoluto... Cioè, la libertà di chiamare chi vogliamo. Se un consanguigno non mi va di chiamarlo, non lo chiamo. Sì. Ma da dove viene lei? Provano a invitare una zia, o la mamma, o la nonna, la suocera. No. Uno invita chi vuole, poi non è detto che sia una festa. Può essere una gita a cavallo, può essere... Eh sì, a cavallo. Andiamo a cavallo. Ma lei vive nella Pampa e noi viviamo qua in tristi città. Va bene, allora io vi consiglio, andate al mare, oppure festeggiamo con chi vogliamo, facendo le cose che ci Valeria, se fosse così, sarei d'accordo anch'io. È che il compleanno va sempre festeggiato con persone che abbiamo vicino probabilmente da tutta la vita. Ma voi perché avete questo peso della famiglia che è un orrore, cioè voglio dire, bisogna che vi liberiate di queste consanguinità di persone che non ve ne frega niente e far avanti, cioè far valere i rapporti di affinità. Ma per questo noi stiamo favorendo l'immigrazione. Valeria, se un peso, insomma, come lo è in molte situazioni... Lei cosa fa nella vita, Valeria? Cosa fa nella vita lei? Sono avvocato. Io. Un avvocato, quindi una professione seria. Mi occupo però per scelta di stranieri, di consulenza stranieri. Quindi di italiani? No, di extracomunitari. Pensavo lei come argentina si occupava soltanto di italiani. E quindi in questo momento però se vengono dei signori dell'Arabia Saudita e dicono dobbiamo assolutamente ottemperare al dettame della fatua del signore consigliere, lei deve dire per forza, deve dargli supporto legale perché loro possano comunque rivendicare questo loro diritto per la libertà religiosa. Scusi, vengo io, sono arabo saudita. Mi scusi, sì. Avvocato, guardi, io ho in mano questa fatua, sono costretto a osservarla. Vuole per favore fare un'ingiunzione a tutti i miei parenti che non mi telefonino e non pretendano che vada ai loro compleanni? Perché io voglio seguire. Io adesso mi converto, in questo momento mi sono convertito, sono diventato anch'io un fedele di questo signore. E io voglio che lei mi faccia una lettera a tutti i miei parenti, non mi chiamate, non mi cercate e soprattutto non pensiate che io debba venire ai vostri compleanni. È possibile questo? Se lei è un avvocato deve farlo. Ma qui entra in gioco la deontologia, Valeria. Una lettera aperta, una convocazione dicendo guardate, chi mi ama venga e chi no sia a casa. Ma l'amore non è giuridicamente misurabile, parliamo di cose serie. Comunque Valeria, non dovrebbe essere misurabile neanche il festeggiamento di un compleanno, meno. Le dico solo una cosa, dico l'amore non è misurabile. Ho lavorato per 30 anni in Argentina. Ferma, Valeria, no, adesso lei parla troppo perché è un avvocato. Allora, io sto facendo un database di ospiti, di personaggi interessanti che chiameremo più volte. Lei entrerà insieme al signore tunisino nel nostro database perché un avvocato argentino ci serviva, ne avevamo proprio bisogno. Quindi prenderemo i suoi dati sensibili e ne faremo abuso senz'altro. Davide? Sì. Lei da che parte sta? Guardi, lei in questo momento sta facendo oscillare il giudizio di tutti perché siamo probabilmente un testa a testa. Per la legge o contro la legge? Allora, assolutamente contro la legge, deve essere obbligatorio festeggiare il compleanno. Obbligatorio, obbligo di festeggiare. Obbligatorio, poi fine 18 obbligatorio, e dopo i 18, ovviamente la maggiore età, chi organizza e festeggia, quindi... Perfetto, chiaro, arriviamo agli ultimi due... Giulio, con chi sta lei? Con chi è d'accordo? Io sicuramente con gli Emirati. Con gli Emirati, quindi abolizione del compleanno. Per forza, benissimo. Giulio, e c'era un'altra telefonata, non c'è, andata via... Beh, è un testa a testa, però hanno vinto quelli che vogliono mantenere il compleanno. Vince ancora una volta la tetragona attaccamento alle nostre tradizioni. Festeggiatevi i compleanni, non il mio, prego.